niente, riprendi tu e fai girare per te. Allora, ti ascolto, ma mi devo allontanare dalla radio perché è arrivata mia figlia un attimo. Sì, ciao Claudio, ma tutto a posto, vai, sono capito, cosa è successo? Stanco sono, stanco, mi sono messo a fare di nuovo, fa male la schiena, fanno male le ginocchia, un casino. Adesso domani che è di sera il mio medico vado, mi faccio prescrivere, mi faccio fare l'impegnativa, faccio un po' di analisi, vediamo se ti fa posto, vabbè. E così, non lo so cosa cazzo, vabbè. Freghiamoci, andiamo avanti, riprende e fai girare per caso, a dopo signori. Ciao Claudio, salutami a tutti a casa. Vai Carlo. Ciao Claudio, ci sentiamo più avanti se combina. Ciao, buona serata. Robè, sto uscendo bene adesso? Sì, io ti ascolto benissimo. Ok, lo lascio così allora, su 5. Va bene, certo non è una radio da combattimento, ma è una radio naturale, per uso in città va più che bene, perfetta, non posso dire niente. La tua modulazione, naturalmente, confrontata con quella che c'era prima di Claudio, sono due cose diverse, quella più da battaglia. Però questa è bella, pulita e piacevole. Ok, allora lascio tutto così. Niente, stavo guardando, l'Inter sta vincendo, 1-0. Che dispiace tanto. Ma che distanza sei dal microfono tu, Carlo? Come Robè? Che distanza sei dal microfono? Adesso sono un po' staccato, sarò a 20 centimetri, 25, dai. Ah, quindi già va bene, no? Pensavo fossi molto lontano. Ok, non c'è problema. Vediamo un attimino Alfa 1 se ci sei batti un colpo. Già ci sono. Tu devi togliere dalla capsula quell'affare che c'è di ferro e riempire dove c'è la capsula di cottone. Ho capito Natali, me l'avevi già detto quello, però non l'ho mai toccato. Adesso provo in questi giorni a fare qualcosa su questo microfono. E se non lo porti a me lo vuoi. Ma anche se ne hai voglia, sì. Ti dico io assai. Io ce l'ho già modificata così, è la verità. Ah sì, la capsula originale, agganciata a quella parte metallica. Io c'ho la capsula del citofono per esattezza. A me è di quelle capsule, Antonio. A metterla a quello di Carlo. E io del controllo. Dove avvencia? Di quelle capsule lì, sono di colore verde, sono, le te lo ricordi quelle, cazzo le ho fatte tutte, ho fatto un impianto, smontato un impianto da Monsalvato, avevo ricordato tutte le capsule, tutte verdi erano, te lo ricordo quando pompavano quelle capsule, era una cosa allucinante. E guarda se ce l'hai qualcuno a metterla a quello di Claudio, di Carlo. Sì, io già controllo domani mattina, guardo in mezzo a tutta quella roba che c'ho, se trovo la capsula verde, te la do, così gliela piazzi. Io l'ho messo una di quelle verdi al mio microfono, infatti le toccano per quel motivo lì. Se attacca il 2009 con il mio microfono e il mio DP4 è tutta un'altra storia. Sembra di avere un cavo che si vale a me. E se no glielo fai tu, mi se lui è più vicino a te, lo porta a te 5 minuti e le fai la modifica, tanto la fotografia te l'ho mandata. Quelle due resistenze sono da mettere in corto, e ricambi la capsula. Tu gli fai il discorso del cottone lì per non ribombare, ed c'è una bomba. Facciamo, l'Inter sta tirando un rigore adesso, speriamo che lo sbagli. Sbagliato! No, cazzo, l'ha preso il palo e poi l'ha ributtato dentro. E poco si incazza oggi Nico con l'Inter, cazzo, stronzi, incomincia a stare. Non fa di me la Juventus, perché si dice che rubano i gol. Vabbè, partite insomma, sono gli ultimi, dopo siamo a maggio e si finisce tutto, quindi non dobbiamo piangere l'altro avversato, diceva quello. Però col baracchino, quello mio, con l'MBP4, così facciamo la prova per vedere che differenza c'è, Carlo. Il tuo ce l'ho giù in macchina, capito, col microfono, perché te lo volevo portare, capito. E solo che non ho avuto tempo, quindi c'ho la macchina parcheggiata pure in cortile, quindi mi tocca scendere giù. Mica ti cambia la pizza. Vabbè, non lo so, vedi tu, se devi uscire ho fatto un giro, ci beviamo una cosa e sei tranquillo. Se vuoi, allora 7:20, alle 7 sono sotto casa tua. Il microfono tuo, così te lo modifica lui lì. Mette 5 minuti quella modifica. Questo Cicafu usa usare. Con l'MB, con l'MB Costa Delta. Così vediamo la differenza che c'è. Tra palatti, tu vedrai che cambierà scena. Ma tu cosa metto tu? Stai usando il Salerno adesso? Eia, sto usando il Salerno con Saturn Echo. Allora perché stava dicendo non è cavato i piedi, lo sto desiderando, non so detto, si virai. Non hai capito? Allora, siccome Carlo c'è il mio 2009 in macchina, ha detto, con l'MB più 4, se non ci avete da fare, ho detto, facciamo così, gli ho detto, lui mi porta l'MB più 4 con il 2009 e io presto il Saturn Echo con Salerno stasera, e vedrai che cambia la scena, ho detto. Esce totalmente diverso da quello che sta usando adesso, tutto lì. Allora, l'ho capito, no, pensavo che avevi problemi con uno, perché non avevi un Sadelta, infatti ho detto, ma me l'ha detto prima che stavo uscendo con Sadelta. Ok, no, già vanno bene quei microfoni, sono una vita che si utilizzano sempre, sono sempre andati bene. Natalia, a te. Io con il Turner me la volevo vendere per prendere il coso, no? Per buscarmi un MC60, capito? Perché ce l'ho nella scatola dell'MB più 4 e non lo sto usando, nulla. Ce l'ho sopra l'armadio, mi pare, è buttato lì. Mettilo su internet, su Subito. Quanto lo stai vendendo? Sì, un centinaio lo vendo, così almeno mi busco un Sadelta, un MC60. Già lo trovo per quel prezzo, un centinaio di euro. Io ti auguro vendi 100 euro, ma non lo so se ce la fai a venderlo 100 euro. L'altro giorno c'era uno che stava vendendo un Turner più 3 Plus e il Turner l'altro, quello grigio, tutti e due 120 euro. Ah, boh. Per meno di 100 già rimane qua e me l'attacca al 3009. Se lo vendi 100 già va bene, buon per te, però ti ripeto, il mercato sta parlando intorno dai 70, 80, 90 euro, ma devono essere perfetti, nuovi. Io quei tipi di microfoni me li terrei sempre, perché è inutile poi vendere luce e poi te ne penti domani. Infatti, te ne penti tu di averlo dato. No, io ce l'ho e me lo tengo, anche se non lo sto utilizzando, ho il Plus, tranne il P3 Plus e altri due ne ho, ma me li tengo, non mi interessa vendere, cosa fai? Ti hanno 60-70 euro e poi è un peccato. Come mi tengo tutti, desideravo sempre l'85, era un microfono che mi piaceva tanto e meno male un amico ce l'ha buscato insieme a 50 e c'ho tutta la serie della, vabbè, a parte l'MC90, ma quello non mi interessa, però c'ho i 60, 260, un 50 e un MC85, tutte le radio sono a posto adesso. Buon per te. Io a casa di questo c'avevo tutta la linea, c'avevo la colonnina, c'avevo l'MC60 e la voglia. Hai fatto un errore, Natalia, sempre quelle cose è bene conservare. Io conosco gente che c'ha, che mi pare sia 30 anni che non entra in radio, e c'ha il 440 con la colonnina, l'alimentatore, l'MC60. Se tu vai a chiedere non te ne dà, anche se è 30 anni che non entra in radio. Lo so, c'è gente che c'ha tutto. Che credo, non so se c'è ancora, forse c'aveva pure un amplificatore quello. Cosa? No, stiamo parlando di gente che chi ce l'ha, se ritiene l'MC60 e la radio, il 440, il 140, ma che non ne ha fatti nulla, però chi lo sa apprezzare se lo tiene sempre. Il 440 ce l'ho 10 anni, ho tutta la linea completa per 140, però me la sono fatta completa. Radio. radio, conduttore automatico, alimentatore, colonnina M60, lo sai quante ne ho, adesso ne ho 4, roba. A me serve anche un altro, figurati. E che te li avanti l'85 e il 60? Un amico. È un tipo, ma veramente l'ha spesso, raramente, è uno così che non sembra seduta, che aveva una diecina, me l'ha regalata. E anche un pedivella, Ghissu. Natali, Roberto per me è un fratello acquisito, perché molla tutto quando io ho un problema e quindi va sempre ricompensato, a parte quello che si fa per lavoro eccetera, ma va sempre ricompensato. Io sono di quel bucchio di matti che chi dà, chi non dà, non ha niente, nulla, ma con l'amicizia è così. Sono finiti i giochi, fammi prendere per il culo la gente, quindi ognuno a casa sua. Io già sto bene con chi devo star bene, con chi so che sto bene, scusai, no? Ne abbiamo già parlato. Scappa di positivo, vediamo a casa se è entrato. A me stai dicendo, Robè? Sì, ti eravamo parlato o che cosa? Ero distratto un attimino. Sì, no, mi ero spostato ma sono rientrato subito, 3 minuti. E niente, adesso vado e ne approfitto, restituisco una radio ad Antonello e poi già rientro a casa, nel caso ci sentiamo dalla macchina o più tardi se ci siete ancora. Scappa. Ok, vai Claudio. No, sono qua, fatte. Fatte Carle, e attento quando vai ad Antonello, non ti fidare molto perché quello è cuoco, ma ne capisci. Mangia di porto una bottiglia di mirato adesso. Dopo che ti ha fatto la modifica dagliela però, no, non prima. Guarda, già li faccio fare a Claudio, la salita di Beccalo Felice, che l'altro giorno l'ho visto, col fiatone l'ho visto. Gli faccio fare la via Carlo Felice o la spesa dallo spin in salita, poi in discesa già viene bene che è leggero. Sento una mazza nelle varie. Ero all'Enel, ho lasciato lì a mia figlia, ancora proprio c'era in farmacia, però l'ho messo la macchina parcheggiata bene, come vado a piedi, non sapevo che avevo fatto i cosci dall'Enel sino alla farmacia sotto casa tua a salire. Mamma mia, un'impresa. A scendere è tranquillissimo. Sembra vicino, ma non è vicino. Sì, non lo so. Io faccio tutti i giorni con le buste. Figurati. Lo sai quante volte salgo dallo ski, mi ferma il fornitore per bere qualcosa, perché sennò a me mi sembra un accidente. Bevo una costa un 4 ore, 20 minuti, quello che è, e poi me ne salgo a casa. Ormai non ve la butto più, una volta me lo facevo per dire a piedi tranquillamente, non succedeva nulla, ma adesso è un casino farla a piedi da lì. Immagina tu che io mi facevo, io ti parlo di 10 anni fa, partivo da via San Donato a piedi e salivo direttamente a casa di mamma, dopodiché a scendere scendevo direttamente in tram. Ma allora 15 anni di meno, tanto per dire, pesava anche di meno, ma adesso poi se metto a fare una cosa del genere mi scende un collasso, mi scende me. Ma lo stai dicendo, hai giunto l'affanno che salendo, poi scendendo no, però salendo sì, vabbè dai. Ok, vai Roberto. Poi ci abbiamo una certa età, adesso bisogna recuperare le forze, i tempi di recupero sono più lunghi, eccetera, eccetera. Ok, chi c'era? Chi aspetta? Natalino a te. Signori, io purtroppo devo fare cosa? Vi ascolto comunque, dai. Ehi, sì, Natalino, vai a cenare, già siamo qua, non ti preoccupare. Ho visto l'orario, va bene. Carlo in macchina, dove? Ci dovevo andare da cosa? Da Antonella, magari sta prendendo la macchina. Carlo, ci sei, batti un colpo. No, sta venendo qua, sta venendo. Che ti portami quello e ti prendi il tuo Saturnecco, così vediamo come esce stanotte. Lo Saturnecco, sono sicuro che esce totalmente diverso. Sarà un'altra cosa, sarà senz'altro. Così me lo fa funzionare un pochettino, così lo voglio me lo sentire, perché avermelo qua a casa vicino non me l'accorgo, capito come esce. Che radio sta autorizzando, Claudio, tu? Cosa? Non ho detto a Claudio, che radio sta utilizzando? Ma non lo so, penso che sia il 140, non lo so. Cosa è stamattina? Sono andato fregato, sono andato a ritirarmi i soldi delle... In pratica dovevo dare 140 euro in contanti. Sono andato a come si chiama, alle poste. 100 sono più di 140. Quindi solo 100 euro. Fottuto. Hai capito? Draghi ormai ci ha messo in testa, gira gira, fa poco non ritiriamo più contanti, manco la bancomat. Come cazzo fa una persona a farsi, cioè, a comprare qualcosa se deve entrare in un negozio, per dire un negozietto piccolino e non c'ha il bancomat? Secondo me, io non so come. Ma ti pare cazzo che un negozietto piccolino serve adesso mettere il bancomat per fare la transazione, magari che guadagna, tanto per dire, 50, neanche 50 euro al giorno, fai quanto sono? 2,50, 3 di transazione. Cazzo, ma che c'è manco a vero me? Ma hai capito che le banche è tutta una cosa, una truffa, stanno cercando di calcolare via il contante per cercare di guadagnare delle operazioni. Allora, se noi incassiamo in officina 50 euro, dobbiamo dare 2 euro alla banca, per cui a me mi rimangono 48 euro. Di questi 48 euro vado a pagare una cosa, altri 2 euro. In tre passaggi da 50 euro ne rimangono 40 euro, hai già messo 10 euro in quattro passaggi, ma stiamo scherzando. Infatti, togliete tutti i soldi della banca e usate il contante. Se non andare a dove dico io. Questo c'è, stamattina sono andato lì alla... lì per ritirare il reddito di cittadinanza, perché danno, davano ogni primo del mese, no? 140 euro. Stamattina sono andato là, ho messo 140, no? In pratica 100 sono più di 40. Allora ho dovuto mettere di nuovo 100 e 100 me li ha dati. I 40 mi sono rimasti in pratica nella carta, come si chiama, a fondo, hai capito? Non me li hanno dati per niente in contanti, non c'era niente da fare. Questa è la posta. Questa è la posta, sì, bravo, questa è la posta e anche l'Inps, più che altro. Perché adesso da 140 solo 100 ti danno, fatto con manco quelli mi danno. Vedrai. Male cazzo, ci abbiamo solo 18 mesi e poi speriamo bene, se tutto va bene, se non succede qualcosa. Ci abbiamo dentro di base, ce l'hanno direttamente in contanti e se la troncano in culo, loro e mattine che ci hanno in testa. In pratica c'erano la carta, noi ritiriamo con la carta i soldi e possiamo pagare in contanti, non come prima. Ciao, vediamo, Claudio, ci sei? Sì, sono qua. Roba tantissima, è tornato. 9:10, quando vi arriva a voi? C'è per lo stesso segnale, non ti preoccupare. Era in pausa, adesso è tornato. Adesso è venuto il morbo di Alzheimer. Sempre lo stesso, 9:10, anche a me. Sempre lo stesso segnale. Sempre il solito. Pensavo che la smettesse, invece è tornata alla ribalta. Vabbè, la pausa non gli ha fatto niente. Break. Avanti, break. Caro sono. Sono in macchina, mi sentite? Sì, a Giulia, 9:35 da me. Avanti Claudio. Sì, anch'io ti ascolto molto bene. Premesso è che né a Natalino, né a Antonello, né a te, né a Carlo vi fa niente. Sì, ho visto che c'era qualche portante prima. Antonello, sono quasi arrivato, scendi. Sì, sta arrivando. Scusate un attimo che faccio uno scambio con Antonello. Stai attento che qua qua è mio. Già c'ho la muta da palombaro. Stai attento che quello è qua qua. Avanti, Natalino. Sto facendo cose, dai. Ah, è vero, scusa, mangia tranquillo, vai Roberto. Ehi, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10, avanti, se no riprendi tu qua. Ehi, c'è qualcuno che vuole entrare, sì, nascolto, prendiamo un bel, non per le balle. Adesso ho cambiato, non si è manca accorto, sto usando l'altro 140, quello di Valerio, quello del 60. Oh, sempre una bomba, pulito, perfetto. Forse appena un peluzzino il segnale, ma proprio una cosa minima, forse si è abbassato. Perché non sono regolati i due uguali. Questo è con 20 watt e l'altro è con 30 watt. Mi interessa quanto la radio sia buona. Perfetta, no, non me la sono neanche accorto, se non me lo dicevi tu non ci ho fatto caso. Beh, vabbè, solo con 4.30 te ne accorgi perché prevale su tutte e due, più forte la radio, più presente, più grossa. 4.30 è come 4.40, ma poi di più di modulazione. Un attimo anche il telefono, Cla. Il campo di Inter sta vincendo 2-0. E bello, buonasera. Buonasera, chi è? Avanti su 10. Mettete una capsula tu. Ok. Attenzione, cosa c'è detto Claudio? Cuomone, attenzione. Che cos'è il tuo cuomone? Mai sentito nominare. Buonasera a tutti, Uranio dalla collina, a tutti buonasera. Buonasera Uranio, com'è da quelle parti? Nuvoloso, piove? Allo, qualcuno ha pernacchiato? No, no, un po' tutto ma negativo, piovere. Ma è più avanti qualche colpo verrà sicuramente con questo cavolo di vento che c'è ancora fuori. Poca roba, però come si sa quello, sicuramente qualche colpettino d'acqua lo verrà. Ok, perfetto. Intanto partino qua, da me insieme alla postazione come di prima, sicuramente postazione fissa, adesso l'imbarra. Zona di Carlo Felice? Anche io sono in macchina aspettando Antonello, sono in via Vandarbasso, zona alta vicino all'ex ospedale Conti, dai. Ah, ho capito. Segnale, quale segnale? 6-6, di radio però 6 passino, una rete di 2 c'hai, però è diciamo comprensibile perché non c'è corrente, quindi è comprensibile la radio, è pulita, ok, perfetto. Benissimo. Ok, Francesco, tu sei Francesco? Eia, sono io, sì. E sei un po' più basso del normale, come mai? C'è la portante. Come mai sei più basso, Francesco? Ti hanno sovramodulato. Adesso, come sto arrivando, dammi un quoziente. 9,5, ma non sei a casa tua? Sì, postazione fissa. Postazione fissa. Cazzo, arrivavi più di 9,10, come mai sei 9 adesso? Prova a guardare adesso, a vedere, 1, 2, 3, prova. Sì, adesso sei tu, 9,10. Perché stavo scendo liscio qua. Stavo scendo liscio, ok, niente, adesso ho attaccato qualcosa, una ventina di watt circa ciò, una ventina di watt ci sono, dai, non di più. Ok, non posso aumentare niente qua, devo sistemare la situazione qua. Ok, vediamo un po', Roger è qua che in standby, che in quel si grecca da una parte all'altra, ok, va bene, dai. Ma mi è sembrato che c'era anche Claudio qua. Ebbene, la ditta Ruggero. Aspetta che sono al telefono, Francesco, e qua non è problema, non me ne accorgo, c'è il fondo scala. Sì, 9,60 qua, va bene. Aspettate un attimo, lasciamo il telefono, riprendi Roberto. Carlo ci sei ancora? Forse Carlo è con Antonello, chi è rimasto qua? Vabbè, Antonello sei a casa tua o sei sceso? Natalino, aspetta un secondo, devo vedere una cosettina, lasciamo così. Ora? Va bene. Vai Francesco. Ok, anche se liscio gli arrivo lo stesso lì, ok, non è che ti arrivo 9,5 come detto lì o 9, già va bene lo stesso, non ci vuole tutta questa potenza, tanto la vicina, la lontananza non è mica molta, no? Quindi diciamo così già va bene, l'importante è arrivare lì, la potenza ci mette solo in distanze lunghe dove diciamo qualcuno ti sente basso, ma se no lì a Sierra non c'è bisogno di attaccare tutta questa granché di potenza che bisogna, diciamo, fissazioni, diciamo, che uno ha, diciamo, di attaccare potenza, dopo lo fa come vuole. Infatti qua io sto usando in seconda marcia, lo posso alzare di più, se no incasino tutto qua. Ok, con problemi di antenna. Va bene, niente, ma come anche lì c'ho già, va bene lì, tu qua stai arrivando con un segnale di 8, stai arrivando una radio di 5 spettacolare, niente, qua tutti arrivano bene, tutti arrivate bene qua, niente da dire, ok, perfetto. Ok, va bene, visto che tutti sono, diciamo, affaccendati, chi qua, chi là, rimetto a te, boh, non lo so, può fare girare qualcuno se è disponibile, ok, a te il cambio, dai. Ciao, vediamo se il cambio è rientrato, allora sono ancora in discussione, che stavamo facendo questa operazione per l'area. Ma tu sei aperto, non verso Sassari, sei aperto verso l'altro versante, diciamo, verso l'Ulvi, quelle zone lì, sei molto più aperto a Ploaghe, e la tua antenna vede meglio quelle zone lì o vede meglio Sassari? No, io sono aperto sempre zona Gallura, lì un po' diciamo verso Muro del Cargese, ma poca roba, ma Muro del Cargese sarebbe quasi a fondo scala, quindi non c'ho problemi, sono un po', diciamo, un po' chiuso lì verso Sierra e basta, ma poca roba. Ci sarei stato 200-300 metri più avanti, lì sarei arrivato a fondo scala sicuramente, perché magari nei vicini in dintorni della chiesa lì c'è una ottima posizione lì per Sierra, quindi non ci sono stati problemi, ma dove sono anche adesso qua non è che ci siano, diciamo, sono un po' chiuso per Sierra, ma poca roba, niente, dai, è così, siamo bene lo stesso, perfetto, la postazione è quella che è. Vabbè, comunque io sono sempre tutto aperto sempre per la Gallura, l'antenna, diciamo, è proprio affacciata in quelle zone lì, non c'è nessun ostacolo, Fieri, diciamo, Scarzulo e quelle zone lì, Caffa, Tango Ecco, Nulvi, anche se Nulvi è un po' chiuso, ma arrivo lo stesso quando c'era un'altra stazione lì, adesso non c'è più da parecchi anni, quindi arrivavo sempre ok dappertutto, ok a te il cambio. Capo, qui lo sei, cioè, di fronte ti arriva una bomba. Roger mi arrivava, adesso non arriva più, quello lì è, diciamo, defunto, morto, ok, già da qualche anno fa è defunto. Ma ce ne sono due o tre radioamatori, io li sentivo bassi, ma riuscivo a tirarli fuori da Ozzi, adesso non mi ricordo come si chiamano. Ce ne sono altri due, ma quello è difficile che si sentano, non le trovo quasi mai, difficile che si sentano, ci sono, pare che sia Lima 1 e un altro che non mi ricordo il nome attivo, altri due, prima c'erano tre, stavo dicendo quello che è defunto, ok. Niente, ma quelli lì non li sento mai, è difficile, molto difficile, uno mi pare che sia un po' difficoltoso di vista, non ci vede bene, un po' cieco, ok, una volta l'avevo visto lì a Fusaro, è entrato, non so, a fare una commissione, stava cercando qualcosa, però ha sbagliato negozio e infatti è andato via subito, ok. Infatti non deve essere molto cieco perché, come vi ho visto, mi ha subito salutato, evidentemente, non è che ci veda, sia cieco di tutto, cazzo. Va bene, dai, riprendete il caso. Se sono rientrati Carlo, Natalino, Claudio e compagnia, avanti, nulla, e cosa? Quindi Pinocchietto del Moro lo saltavi a bomba tu? Non ho capito, cosa? Quello di Budusuo, Pinocchietto del Moro, la saltavi forte tu? Sì, io senza sentire a Pinocchietto del Moro sono almeno un bel po' di anni, almeno 5-6 anni. Non ho più sentito a Pinocchietto del Moro, più sentito, non so cosa sia successo, boh, non lo so, cosa vuoi ti dica, non lo so, anche quello qua arrivava bene, anch'io arrivavo discretamente lì in quella zona di Budusuo, quello mi pare che mi arrivasse sul un Santiago, no? Mi pare una radio abbastanza ottimale, ok. Ok, a te cambio. Se lasciamo un secondino di bianco, se è rientrato Claudio, avanti. Niente, ok, siamo arrivati in due, dai. No, Pinocchietto già l'accompagnavamo molte volte quando stava rientrando, già ci faceva sentire anche lui, però doveva attaccare qualcosa. Quelli di Ozzini, considerando che sono più vicini, arrivavano molto più bassi di lui. Io sono molto aperto per la zona di Alghero, tutte quelle zone lì arrivo abbastanza bene. Un po' penalizzato per la zona Castelsardo, quella zona lì sono un po' chiuso, cioè quella collinata di coso mi fa un po' da specchio, però per il resto già mi difendo abbastanza bene, dai. Ok, rinnovate Francesco. La posizione, diciamo, è un valore molto importante per l'antenna, diciamo, per un amatore di radio, ok, quindi la posizione è sempre quella che conta, vale più, diciamo, della potenza, perché la potenza, diciamo, è vale dallo stesso, però, diciamo, fino a un certo punto, perché la visuale della posizione vale molto di più, perché, diciamo così, che, diciamo, il valore, diciamo, di un radioamatore, di CB e via dicendo. Ok, vabbè, comunque ognuno c'ha la posizione che, diciamo, che ha, e quello che, diciamo, non ce l'ha pazienza, ma io trovo qua, diciamo, non mi posso lamentare come posizione. Va bene, niente, è tutto qua. Che avanti, chi ha fischiato cosa, Francesco? Poi io non ho fischiato niente, qualcuno spiritoso o diciamo si mette la fischiare, capito? Quel fischio, vabbè, non dico niente, ma per educazione, per questo, se no c'è da dire qualcosa, ma lasciamo perdere, va. Vabbè, vediamo se vuol venire avanti e chi vuole entrare su canale 10. Lascia perdere, lascia. Ui. Questo è il 430, molta differenza c'è, Roberto. Questa è più da combattimento, quell'altra era più salottiera, ma belle tutte quante, entrambi, questa è più forte. Questa è per male. È sempre così, non c'entra a fare. Cambierà la resta 10 anni, ciò. Come già non l'ho comprata, va bene, questa è quella che ha messo il filtro M Fabrizio. Va bene. Chi è avanti, chi può entrare? Non ti capisco cosa stai dicendo. Chi è? Lo sentite? 9 qua arriva, però non si capisce quello che sta dicendo. Qua arriva a 5, ma se ne è radio non sento niente io. Sta provando a parlare, c'hai un'alternata fortissima, non so chi sei, identificati, vediamo un po'. Avanti, stava parlando ma non si capiva quello che stava dicendo, non credo che sia Carlo, perché Carlo era in macchina, ma siamo abbastanza vicini. Vediamo se sono rientrati Carlo e Antonello. Avanti Carlo, nulla. Ok, riprendi il telefono tu Claudio, devo fare una telefonata veloce, sono me ne dimentico, riprendi tu qua. Via, gappa. Fai, non c'è problema. No, ma non mi ha dato acqua, France. Anche qua c'è un bel vento, però acqua non mi ha dato. Sì, momentaneamente, magari quando c'è il vento, ma adesso non è più tempo di acqua. Oramai l'acqua, diciamo, magari qualche rutina così, qualche mia fettina così, ma poca roba, adesso non è più tempo di fare acqua, diciamo, come la fa nei periodi che la deve fare, ok. Perfetto, va bene, ma il 430 come sta andando? Sentivo l'altra volta il Corix, sono entrato perché sto facendo altre cose. E sentivo, diciamo, la mentele che si annullava, diciamo, di sé, diciamo, in AM. Invece in banda andava benissimo, non so se hai fatto qualcosa o come, dimmi. Una troncata, faccia, Ferrari anziano, una troncata, erano niente di particolare. Un falso contatto su una spinetta interna che mancava appunto il frequenzimetro, in AM automaticamente manca anche la ricezione, mentre in banda laterale no, capito, FM mancava la ricezione. L'ho aperto e l'ho tutto controllato, mi sono accorto che c'era questo filo tocca non tocca, è molto difficile a saldarli perché sono fini, ho messo la lente piano, ho saldato il titolo, ma l'ho appoggiato che ha saldato subito, l'ho mollato perché devi stare attento che se no bruci, sono delle spinette di plastica fini, capito? non fai danno. Non era niente di particolare. Adesso sembra che stia andando già qualche giorno che non ha fatto più difetto, quindi dovrebbe essere a posto. Meglio così allora, dai. Quindi allora Fabrizio aveva ragione, falso contatto. Succede vecchie macchine così, sono così, Bisogna stare molto attenti lì, ma l'importante è che abbia risolto il problema della parecchia vola bene, anche dopo il resto. Vada come vada, va bene, perfetto. Così è la situazione, bisogna stare, diciamo, sempre in campana con queste apparecchiature vecchie. Le vecchie macchine sono come, diciamo, le persone. Diciamo, quando si è giovani tutto è liscio, tutto, diciamo, è a posto, nessun dolore, niente. Quando invece si inizia ad avere una certa età, che si diventa anziani, o anche vecchi, escono gli acciacchi, diciamo, e gli effetti da tutte le parti. E così purtroppo sono anche le radio, purtroppo diciamo, la tecnologia dell'elettronica, anche quella è così, purtroppo. Va bene, a te cambio. Si conferma, così e così. No, beh, questo intanto non lo guarda mai nessuno. C'è un sacco di anni e ha sempre funzionato bene. Qualche cazzatina è stata fatta sempre a Fabrizio. Ho messo il display nuovo. Questa è nuova, nuova, sarà la vetrina, è proprio trattata sempre con i guanti. Anche gli altri sono nuove, ma tutte le varie sono nuove. Questa però è quella più anzianotta, quindi ogni tanto fa i capricci, ma io quelle piccole cosette già solo mette le mani, diversamente già mi appoggio a Fabrizio che ti dà sempre una dritta. Molto bene, tutti spariti sono, Antonella Motopompa dov'è? Non c'è, sicuramente sta parlando qua. C'è un segnato, c'è un telefono, c'è una minchia. Quando ero a Carboate arrivavi, quando attaccavi arrivavi 9.10, 9.15, e qua sei agganciato 9.60, sganciato sei 9.40. E a Trabone Buoni era importante, sì, non c'è, manco il ferro di quella. E ora ci ha detto, chiudono sempre per ordine, poi tu vedi anche, lo vedi il paese, quindi sei aperto e sono aperto anch'io, anche se pare che sono chiuso già di quello stesso, quindi non ci sono problemi. Qualcuno che si è a mettere portante, già passa presto, ma non passa manco con la Ferrari. Oh. Ok, va bene, meglio così. Niente, situazione è così. Vabbè, purtroppo se c'è qualcuno che ti dà, diciamo, una dritta, anche meglio, perché, diciamo, ti aiuta a fare, diciamo, quello che devi fare, se uno lo sa fare, tu ti arrangi a fare, diciamo, queste riparazioncine così, è meglio che uno si arrangi pure, io invece non ci capisco proprio l'accidente. Niente, ma chi, diciamo, si arrangia, diciamo, meglio che, diciamo, farsi i lavoretti ognuno fa sé, perché cioè, ad ogni diciamo, stupidaggine deve mandare l'apparecchio fuori e buonanotte, quanti soldi ci vogliono. Poi ci sono anche rischi e palle varie, capito, magari succede, può succedere di tanti, tante cose, diciamo, sul viaggio, diciamo che mandi, diciamo, l'apparecchio. Quindi uno si sa arrangiare, ancora meglio di mandare l'apparecchio fuori, e anche è meglio anche risparmiare, diciamo, le cose, perché i tecnici, diciamo, che fanno queste riparazioni mica vogliono delirio, quelli si fanno pagare, non so a quanto fanno a ora, però sicuramente parecchio. Bene, meglio così, comunque che hai fatto una risolta il problema, sono contento e va benissimo così, allora dai, perfetto. Allora, visto che non c'è nessun altro qua, riprendi tu e vediamo un po'. Sono rientrato. Allora, Gianfranco, mi potete dire sotto quando passare un'antenna? Gianfranco, S9, radio bassissima. Sì, ma quello non importa la radio, l'importante è che si capisca quello che dica. Quindi S9 è fortissimo allora. Ok, ottima, eccezionale. Per voi è 29, eccezione di Bassano, credo. Scusa, Francesco, ma sta parlando qualcuno che mi ha chiamato mia moglie? Un'antenna molto... C'è Gianfranco, aspetta. Prendi... Fate avanti. Scusa Gianfranco, ti ha parlato un attimino Claudio, che si è allontanato. Cosa hai detto? Ripeti Gianfranco. No, che tu sei 920, come hanno 920. Claudio, tu mi senti dalla tua zona? Basso, ma capisco quello che stai dicendo, Gianfranco. Ottimo, Claudio. No, stavo provando un'antenna, con quell'apparato che tu hai visto, quello, insomma, quello là. No, arrivi, un po' bassino ma arrivi, riesco a capire ciò che dici. Riprendi, vabbè, un secondo che mi stanno... Ogni volta mi chiamano, riprendi un attimo con Francesco. Ciao, ma già Flavio, tu poco fa che non stavi uscendo? Diciamo, io sono uscito solo per un attimo con l'alternata, poi ho sentito che c'era l'alternata e ho dovuto attaccare, tutto lì. Ah, quando ho detto che ti sentivo di malissimo, però c'era l'alternata, eri tu quindi, dai. Sì, perché c'era una incongruenza col microtelefono, capito? Con la cornetta. Ma è che radio è, che antenna stai utilizzando? Antenna militare a nastro, e quelle tipo Vietnam, non so se c'è così. Sì, già le conosco, ne ho qualcuna pure. E che radio è? Quindi... Vorrei trovare una casa, ma c'è un po' freddo qua fuori. La radio è Gianfra? Ecco. Sveglia, ti hanno parlato sopra. Che radio è? Non si può dire, è classificata. Ah, no, vabbè, pensavo fosse tipo quelle walkie-talkie, quelle radio che poi si allagano anche di banda, come l'ho detto allora. Ok, vediamo un amico che ha fischiato, se vuole entrare. Nulla, comunque mi tiri fuori a me, tranquillamente. Ma guarda, portandomi sul canale si sente anche l'estero, figurati. Ha ricevuto da paura. Diceva anche benissimo... satellite in questa antenna. Ma è un veicolare o uno spalleggiabile? Cos'è? Gego si chiama Manpack. Per darti un'idea, adesso un attimo ti faccio sentire una cosa, o meglio, non sentirai una cosa, però sentirai un sistema. Ah, quindi è una radio recente come concezione, dai. Sei sempre tu Gianfranco? Sentito qualcosa? Ho sentito un soffio. In realtà ti stavo dicendo ciao, però ovviamente non sono a per ascoltare. E che potenza c'ha in questo momento? Dovrebbe essere 2 watt, di più questo 90, 2-3 watt in antenna. No, la modulazione è chiara, anche se è molto molto bassa, vabbè, è fatta per altri scopi sicuramente, e per altri tipi di emissioni. Sì, qua non occorre pazienza, ma non ti ascolto, è meglio essere capito. Poi se vuole andare lontano, comunque, capito. Ciao, vediamo se c'è ancora Francesco. Ci sei Francesco? Sì, Roger, Gianfranco è stato qua bassissimo, molto molto basso, ok. Ho riconosciuto la sua modulazione, però qua di radio arriva molto molto molto molto molto molto basso, ok. Non so se lui mi senta, non lo so, comunque lo sto soccorrendo qua dalla mia stazione e niente, dai, tutto qua, ok. A te di nuovo il cambio, Gianni. Comunque lo sento benissimo lui. Ti ha ascoltato benissimo, e vabbè, lui è in alto per forza. Io ti vedo e lui è ancora più in alto di me. Ok, non c'è problema. Sì, io vi devo allontanare, magari ci sentiamo più tardi se coincide. Saluto Gianfranco, Claudio, Francesco, Natalino, Carlo, Antonella e tutti gli amici qua SWL. Ciao, io interrompo. A dopo se ci siete. Anch'io scappo via perché c'è troppo freddo qua. Ciao. Mica sei 27, cosa è SWL? Ero là che battuta. Attenzione, canale 10, prego. Una attenzione, binario 10, cambio. Vai alla stazione, i binari sono alla stazione, con ascensori binari, buonasera, avanti. E tu fai il casellante. Manco quello adesso, manco quello. Ehi, vabbè. Già l'hai fatto però. Per la bellezza di quasi 27 anni. Oh, sei in mezzo al QRM, non sei la propagazione che c'è, allucinante. Ma qua praticamente io non ho niente, e magari tu sei più in alto, o più, diciamo, verso la propagazione, sono qua io, sono pulitissimo, ho appena fatto di fruscio solita della 27, ma nessuna diciamo, predisposizione di propagazione, boh. Non lo so, magari sta avvicinando qua, anche qua, non lo so, vabbè. Tu come pare te la porti appresso, capito? È più forte la propagazione quasi dell'alta modulazione, sei in basso di radio, risulti. Anche se riesci sempre bene, ma la propagazione ti copre. Vedi un po' adesso come va, se è meglio o se è peggio, vedi un po' uno, due, tre prova. E adesso ha cambiato al 100%, la copri la propagazione bene, se ne senti un pochettino ma non la sai. Ah, visto è, c'è il rimedio, ok. Così è, diciamo, uno quando si sente male va dal dottore, dice mi dia un rimedio per passarmi questo dolore, dice cosa c'è, questo e quest'altro, vado in farmacia e prendo questo, visto? È il rimedio, qua è il rimedio, diciamo, la potenza. Niente, visto, è rimedio a posto. Infatti la potenza vuol dire, non so tu se mi stai ascoltando bene, ma tante volte quando c'è propagazione, ieri per dire la Plaza Mona e non sentivo nessuno, la propagazione copriva a tutti, arrivava a 9:20. Evidentemente era più forte la propagazione, diciamo, che gli altri, evidentemente. No, qua avete sempre il solito segnale su Santiago di 8 e 9 di 5, ok. Sempre ok, niente, tutto a posto. E 8 è bassino, guarda bene lo smitter, secondo me è basso lo segnale 8, o è l'antenna capottata? Io non è un'antenna capottata, non ti preoccupare tu, non è un'antenna capottata, è il tuo segnale che è 8, se è 8 è 8, basta, c'è poco da fare, ok, qua arrivate tutti 8, non so perché, tutti 8, ok, niente, cosa vuoi di più, cosa vuoi arrivare a fondo scala, se vuoi arrivare a fondo scala, sali più in alto, cosa vuoi di più? Ah, sto scherzando. Magari lo smitter che ha fatto il tuo. No, non credo che io sto usando lo 2001, quindi della Midland, quindi non penso che questo smitter sia avvaro, può anche darsi, non lo so. Ma il segnale già di là, quando diciamo uno è potente già di là, ok. Certamente ogni apparecchio, diciamo, ha le sue modalità. Diciamo un altro ti può dare anche 9:10, diciamo l'altro che stiamo usando l'altro giorno qua tu arrivavi circa 9:10, questo ti dà 8, e cosa vuoi ti dica, dipende anche dall'apparecchio, diciamo dalla caratura, diciamo, degli strumenti, diciamo anche tante cose ci sono, capito? Sì, già è vero quello. Per dire, io ho comprato nuovo di zecca 3009 ed è avvaro, massimo da 9, è avvaro come, però io lo so che arriva a 9, 9, 10, 10 tipi di scarto c'ha. Ma non toccare niente, lascialo stare così, evidentemente è stato tarato così dalla fabbrica, è meglio ormai non toccare niente, magari se tocchi qualcosa lì vai a peggiorare di tutto le cose, quindi come è stato, diciamo, fatto da sua madre, lasciarlo così e via, stare a toccare, a fare, l'importante è che ricevi segnali dopo, se uno arriva così, se arriva più forte arriva più forte, se arriva più basso arriva più basso. Non conviene mai toccare niente, se no magari dopo si rischia di peggiorare, diciamo, le cose, dopo ognuno fa quello che vuole, ma diciamo io la penso così, se è così basta. Ma io gli apparecchi non li apro, tranne il garage che l'ho aperto perché stava difettando. E uscivo strano di radio, ho provato a regolare la radio, ma conoscendo i trimmer e tutto, l'ho appena regolata, non era quello, l'ho portato al dottore, va. Visto è. Dopo il dottore pure pagato, niente. Vabbè. Dal dottore dice, come dici tu, si porta quando l'apparecchio ha un difetto diciamo grave, che allora tu non puoi fare niente, quindi lo porti diciamo alla riparazione, ma per fesserie del genere poi se l'apparecchio è stato fatto così, è stato fatto così e basta. Niente. Attenzione canale 10, attenzione canale 10, io chiamo e voi rispondete, cambio. Ok, il tecnico vuole diciamo la sua parcella, quindi attenzione canale 10, cambio. No, io a parecchi non mi sono mai fermato a aprire niente, perché tanto anche se apro non si capisco un tubo e se vado a toccare un quadro magari. Buona fiesta dei lavoratori di canale 10, cambio. Se c'è possibilità si porta diciamo a farlo controllare via dicendo. Questa è la mia, cioè il mio parere. Ho capito, no, io non ho mai toccato gli apparecchi, non li tocco. Tutti quelli che ho non li ho mai aperti, solo te l'ho detto in garage perché pensavo che fosse una questione di radio, ho provato a alzare la radio ma non era quello. Quindi l'ho rimesso com'era. Ciao, buonasera! Ciao, Eugenio il genio. Ciao Gianni, buonasera a tutti. E allora? Allora, in giro eri? In giro. In giro, che bello, in giro. E dove siete stati? Ero novistanese. Allora, i compagni chi sono? C'è un amico da Usilo, dai, avanti. A Usilo, avanti. Ah, ok, Roger. Perfetto, vabbè, non so chi sia l'amico, anzi non mi ricordo il nome attivo, vabbè, dai. Avanti l'amico, se mi sente, Uranio, da questa zona alta. Lo senti Uranio? No, negativo, no, non arriva qua. Sono, così è, sono in movimento già, non lo sento. Dove ti trovi adesso? Città Mercato. Ah, è già sì, vicino. Cava, non ti sente Uranio, non ti sente. Anche qua io lo sento, ma basso, molto molto basso, evidentemente deve essere in barra mobile, così è, se non sbaglio, sì, sicuramente. A me arriva molto bene, ma è vicino. Perché da te è più aperto, qua è invece chiuso, non arriva, è arrivato per quello. La zona è sempre quella che conta, la posizione. Ah, io sono andato una volta dove c'è il rifugio dell'Aquila, lì su, dove c'è la chiesa. Ho parlato anche con cosa, con Abbasanta, eccetera, eccetera. Arrivavo 9:05 Abbasanta, capito, da lì. Ciao Gianni. Ciao Fra. E allora, con chi sei? Mi c'è Uranio da Usilo e Eugenio il genio. Cappa, ciao Uranio, ben ascoltato. Franco da Sorso, ciao Eugenio. Ciao Fra, buonasera, anche se non riesco a sentirti proprio benissimo. Capito, ti sento piccolo. Fra, cosa stai usando? Il Galaxy? Cappa, Eugenio, cosa ha detto Eugenio? Non l'ho sentito, mio, lo sai. Non l'hai sentito? È in movimento Eugenio, è in movimento con il camper, è vicino alla città mercato era. Cappa, sì. Avanti Uranio. Ciao Fra, buonasera. Sono tirato fuori. Motore cordiali qua dalla zona alta, è ben sentito, ok, non so come ti arrivo io, lì tu mi stai vado un po' basso, un po' diciamo di schiaffi. Al fruscio qua si è usato un po' di fruscio di correme, evidentemente sta stando qualche cosa di profanazione in giro, ok. Va bene, riprende Franco se le tiri fuori. Cappa ora, anche tu sei pazzino qua, mi arrivi un segnale di 3, una radio buona, abbastanza comprensibile. Niente, ciao Eugenio, ti ho sentito quando stava stava facendo il passaggio. Ciao Fra, buonasera. Caffa, aspetta appena. Ecco, riesci a vedere se mi ascolti adesso. Ti ascolto decisamente molto meglio. Io qua, zona Lipunti, capito, Lipunti. Caffa, va bene, va bene. Avanti Gianni. Che microfono hai messo in quell'apparato? MP più 5. No, no. Figlio, sai cosa ci vuole? Salerta Master Plus, è l'unico che ci va bene lì. Va alla grande. Già, l'ho fatto le connessioni e tutto, ma mi fischia. Come ti fischia? Abbassa che per MacGing. Il volume del microfono. A me non mi fischia. A me va benissimo. Lo metto a fianco addirittura all'apparato. A me, ma mi ha fischiato, ho abbassato anche il Mickey Gay della radio, del volume, anche addirittura Mickey Gay, quello là l'ho messo a 1, ma mi fischia sempre, forse perché è sempre fermo. Come stazionario e come si è messo? Io stazionario sono 1 e 1. Franco! Bocca! Eia! Ma mi senti? Sì, mi senti bene, fai fatica a tirarmi fuori. Un po' di fatica faccio a tirarti fuori. Fai fatica? Cappa! Vabbè, ti ricordo che ho 50 cm di antenna nel camper, capito? Capo, sì, ho capito. Sei un USB, a volte arrivi 3, a volte arrivi 2, a volte 5, dipende magari come ti muovi. Vabbè, sono in movimento, ma la radio arriva, sì, la radio già va bene. Sì, la radio sta arrivando. E meglio non si dai, sto arrivando a sorso col camper, con l'antenna sopra il cappotto va benissimo. Capo, avanti ora. Ma cosa, Franco, ma cosa sei? In paramobile sei, in movimento sei. Chi io? Tu, perché prima di passa se il segnale si è alzato il segnale anche di radio un po'. Attaccato. Sono a casa. L'ho agganciato. Ah, ecco, così è allora. Va bene, perché prima arriva più basso, adesso arrivi meglio, molto meglio di prima. Vabbè, sicuramente, tu stai dicendo che arriva un basso, vabbè. Ok, dai, comunque io vi saluto perché qua chiudo e vi lascio, diciamo, in buon proseguimento di QSO. Per me, diciamo, è QRT. Salutoni a tutti e ci sentiamo alle prossime, dai. Buon proseguimento di serata e tanti saluti a tutti. Ok, per me è QRT. Ciao, riprendi. Gianni, poc'anzi ti ho scambiato, ho confuso i nomi, l'altro che era andato, diciamo, in QRT o in QRX, non so, era Roberto che pare, sì. Va bene, dai, ciao a tutti, per me è QRT, ciao a tutti. Ciao Radio, dai, buono QRT, ci sentiamo, buona serata, avanti Franco. Capa, ciao Radio, buon QRT, buon tutto, dai, ce la riascoltiamo alle prossime, ce la riascoltiamo. Avanti a te, Porto Torre. Adesso riesco a tirarti fuori meglio, Fra. Anche io ti ascolto meglio. Vabbè, sono all'ottava. Capa. Ci arriva probabilmente per via dell'antenna che c'hai, dai, quell'antennino. Fra, quanti watt ti staranno con l'apparecchio? Sì, dai, beh. Di piano di massa. 8. Sotto. Capito? Qual era un po' grossa. Cappa. 8 Gianni. Vabbè, il mio è la regola sta a 9. Vabbè, comunque già va bene. Solitamente va dagli 8 ai 10, dai, già va bene, perché poi se li attacchi, quando li attacchi lineare comunque abbassa la potenza. Cappa, quella sì, infatti gliela regolo sempre, ce l'ho, diciamo, a mezzogiorno ce l'ho sempre. Anche di meno, che la regolavo anche meno. Vabbè, comunque è proprio all'inizio la mettevo, così va meglio, perché ho provato a aumentarla e è fatto danno. Cappa, sì, vabbè, questo è non è stato mai aperto, mai toccato, questo è stato, ha lavorato, mi sta stava dicendo ieri, ha lavorato più o meno 2-3 mesi, ha lavorato, poi ce l'ha messo dentro la scatola e l'ha lasciato stare, l'aveva comprato nuovo. Così lo voglio io. Io sempre ti ascolto, Eugenio, lo sai, è qua per Porto Torre si va sempre bene. Vabbè, tieni sempre conto, io sono un camper. Dove sei adesso, Eugenio? Sono passato qua, ho capito. Cioè, va bene, già va bene. Forse quell'antenna fugge di più dell'altra. Va bene, quindi fra adesso ti sei appassionato a quello?